Capitolo 3. Nell'estate del 1902, almeno credo che fosse il 1902, Susan B. Anthony venne in visita a Manchester e quella sua visita fu una delle motivazioni che ci spinsero a fondare la nostra organizzazione militante per il suffragio, la Women, Social and Political Union. Durante la visita della signorina Anthony, mia figlia Christabel, che ne restò profondamente colpita, scrisse un articolo per i giornali di Manchester sulla vita e l'opera della venerabile riformatrice. Dopo la sua partenza, Christabel parlava molto di lei e sempre con dispiacere e indignazione per il fatto che una così meravigliosa attivista a favore dell'umanità fosse destinata a morire senza vedere realizzate le speranze di una vita. È insopportabile, dichiarò mia figlia, pensare che un'altra generazione di donne sprechi la sua vita elemosinando il voto. Non dobbiamo perdere altro tempo, dobbiamo agire. In questa fase, il Partito Laburista, di cui io ero ancora membro, aveva rieletto Keir Hardie in Parlamento e decidemmo che il primo passo di una campagna d'azione fosse quello di dare al Partito Laburista la responsabilità di proporre una nuova legge per il suffragio. A un recente convegno annuale del partito, avevo avanzato una risoluzione invitando i membri a istruire i loro singoli rappresentanti in Parlamento perché presentassero un progetto di legge per l'emancipazione delle donne. La risoluzione passò e così decidemmo di dar vita a un'associazione di donne per rivendicare l'immediata emancipazione, non coi soliti metodi da missionari e ormai superati, ma attraverso l'azione politica. Fu nell'ottobre del 1903 che invitai alcune donne nella mia casa di Nelson Street a Manchester con intenti organizzativi. Votammo per chiamare la nostra nuova associazione Women's Social and Political Union, in parte per enfatizzare la sua natura democratica e in parte per definire i suoi obiettivi come politici più che propagandistici. Deliberammo di restringere l'iscrizione esclusivamente alle donne, di mantenerci totalmente al di fuori di qualsiasi affiliazione partitica e di non soddisfare le nostre istanze se non con l'azione. Fatti, non parole, doveva essere il nostro perenne motto. La causa del suffragio femminile aveva fatto talmente tanti passi in avanti nel mio paese che i vecchi leader che in passato avevano fatto un buon lavoro di formazione, adesso a quanto pare erano soddisfatti dell'espressione di simpatia e pentimento da parte dei politici ipocriti. Questo fatto si ripropose per un incidente occorso quasi nel momento della fondazione della Women's Social and Political Union. Nel nostro Parlamento nessun progetto di legge ha la possibilità di diventare legge, a meno che non sia approvato da una misura del governo. I deputati che non fanno parte del governo sono liberi di presentare delle misure per proprio conto, ma queste raramente raggiungono la seconda lettura o la fase dibattimentale. Si dedica talmente tanto tempo ai provvedimenti del governo che molto poco ne resta per i progetti di legge di iniziativa privata. All'incirca una volta a settimana si prendono in considerazione i provvedimenti privati a cui, come si dice, il governo offre spazio. E siccome il numero di settimane in una sessione è limitato, i membri, nei giorni di apertura del Parlamento, si riuniscono e discutono molto per decidere chi parteciperà ai dibattiti. Soltanto questi uomini affermati hanno l'opportunità di parlare dei loro provvedimenti e solo quelli che hanno fortuna possono sperare di ottenere ulteriori discussioni sulle loro misure. Ora, i vecchi suffragisti avevano da tempo perso ogni speranza di ottenere un progetto di legge governativo sul suffragio, ma si aggrappavano alla speranza che il provvedimento di un membro non governativo riuscisse ad avere un po' di considerazione. Ogni anno, nei giorni di attività del Parlamento, l'associazione inviava una delegazione di donne alla Camera dei Comuni per incontrare i cosiddetti parlamentari amici e valutare la situazione della causa del suffragio femminile. La cerimonia era delle più convenzionali, per non dire farsesca. Le signore facevano i loro discorsi e i parlamentari facevano i loro. Le signore ringraziavano i parlamentari amici per la loro comprensione e i parlamentari rinnovavano il loro sostegno al suffragio femminile e assicuravano che avrebbero votato in suo favore non appena ne avessero avuto l'occasione. Dopodiché la delegazione, un po' mesta ma del tutto tranquilla, se ne andava e i parlamentari tornavano ai loro veri affari, che consistevano nell'appoggiare la politica del loro partito. Io partecipai a una cerimonia del genere subito dopo la nascita della Women Social and Political Union. Sir Charles McLaren era il parlamentare amico che presiedeva l'assemblea e svolse pienamente il suo dovere aderendo formalmente alla causa del suffragio femminile. Rassicurò la delegazione mostrandosi profondamente rammaricato, così come lo erano molti suoi colleghi. Che donne tanto intelligenti, tanto devote, eccetera, fossero ancora private del diritto di voto. Altri parlamentari fecero lo stesso. I rituali stavano giungendo a conclusione, ma io, che non ero mai stata invitata a parlare, decisi di aggiungere qualcosa per l'occasione. Sir Charles McLaren, attaccai bruscamente, ha detto che molti dei suoi colleghi auspicano il successo della causa del suffragio femminile. Tutti noi sappiamo che in questo momento i membri della Camera dei Comuni stanno votando per un posto nei dibattiti. Sir Charles McLaren è in grado di dirci se qualche parlamentare sta lavorando per presentare un progetto di legge sul suffragio femminile? È in grado di dirci se lui e gli altri membri si impegnano a fare qualcosa per la riforma che tanto calorosamente dicono di appoggiare? Naturalmente l'imbarazzato Sir Charles non era preparato a dirci niente del genere e la delegazione se ne andò confusa e infuriata. Mi dissero che ero un'intrusa, un'insolente. Chi mi aveva autorizzato a dire qualcosa e che diritto avevo io di intervenire e rovinare la bella impressione che stavano facendo tutti loro? Nessuno poteva dire quanti parlamentari amici avevo reso ostili con le mie sciagurate osservazioni. Feci ritorno a Manchester e con rinnovata energia proseguì il lavoro di organizzazione della WSPU. Nell'estate del 1904 andai al convegno annuale del Partito Laburista Indipendente, determinata a indurre i membri a preparare un progetto di legge per il suffragio da presentare in Parlamento in vista dell'imminente seduta. Benché fossi un membro del Consiglio d'amministrazione nazionale, e quindi si presume una figura con una certa influenza nel partito, sapevo che il mio piano sarebbe stato aspramente contrastato da una forte minoranza, che sosteneva che il Partito Laburista dovesse indirizzare tutti i suoi sforzi ad assicurare il suffragio universale degli adulti, sia uomini che donne. In linea teorica, ovviamente, un partito laburista non dovrebbe ritenere soddisfacente un suffragio che sia meno che universale, ma era evidente che una riforma tanto radicale non poteva essere realizzata in quelle condizioni, a meno che il governo non la facesse rientrare tra i propri provvedimenti. Inoltre, mentre un'ampia maggioranza di membri della Camera dei Comuni prometteva di supportare un progetto di legge che desse alle donne l'identico diritto di voto degli uomini, restava in dubbio se si poteva contare su una maggioranza che appoggiasse un progetto di legge per concedere il diritto di voto agli adulti, anche solo maschi. Un tale progetto di legge, fosse anche stato un provvedimento del governo, avrebbe verosimilmente avuto poche probabilità di passare. Dopo consistenti discussioni, il Consiglio d'amministrazione nazionale decise di adottare il Women's Enfranchisement Bill, abbozzato dal dottor Pankhurst e inoltrato nel 1870 per la seconda lettura alla Camera dei Comuni. La decisione del Consiglio fu approvata dalla schiacciante maggioranza dell'Assemblea. La nuova seduta del Parlamento, così tanto attesa, si tenne il 13 febbraio del 1905. Partì da Manchester e con mia figlia Silvia, al tempo studentessa al Royal College of Art di South Kensington, trascorsi 8 giorni nella Strangers Lobby della Camera dei Comuni, lavorando al progetto di legge per il suffragio. Facemmo colloqui con ciascuno dei parlamentari che si erano impegnati a sostenere un progetto di legge sul suffragio quando fosse stato presentato, ma non trovammo un solo parlamentare persuaso che valesse la pena rischiare il proprio voto, semmai avesse deciso di prendersi questo rischio, per la presentazione del progetto di legge. Ognuno aveva qualche altro provvedimento che era ansioso di promuovere. Kay Reardy ci aveva precedentemente dato il suo appoggio, ma il suo nome, come avevamo temuto, non fu designato per la votazione. A quel punto tentammo di avere un colloquio con tutti gli altri uomini cui i nomi erano stati designati e alla fine convincemmo Bamford Slack, che aveva ottenuto il 14° posto, a presentare il nostro progetto. Il 14° posto non era granché, ma ci andava bene, e la seconda lettura del nostro progetto di legge venne fissata per venerdì 12 maggio, come secondo ordine del giorno. Trattandosi del primo progetto di legge sul suffragio negli ultimi 8 anni, un brivido di eccitazione animò non solo le nostre fila, ma tutte le vecchie associazioni in favore del suffragio. Si tennero delle riunioni e circolarono tante petizioni. Quando arrivò il giorno della valutazione del nostro progetto di legge, la Strangers Lobby non riuscì a contenere l'enorme adunata di donne di tutte le classi, ricche e povere, che affluirono alla Camera dei Comuni. Muoveva con passione osservare la speranza e la gioia che risplendevano sui volti di molte di loro. Sapevamo che il nostro piccolo provvedimento aveva una minima possibilità di passare. Il progetto di legge che occupava il primo ordine del giorno stabiliva che i carri che percorrevano le strade pubbliche di notte dovessero avere le luci dietro oltre che davanti. Noi avevamo provato a convincere i promotori di questa piccola e rilevante misura di ritirarla nell'interesse del nostro progetto di legge, ma si erano rifiutati. Avevamo anche tentato di persuadere il governo conservatore a dare al nostro progetto lo spazio per una piena discussione, ma anche loro avevano rifiutato. Quindi, come ampiamente previsto, ai promotori del Roadway Lighting Bill fu concesso di ostacolare il nostro progetto. Lo fecero tirando per le lunghe il loro dibattito con stupide storielle e battute cretine. I parlamentari assistevano a questa offensiva performance con risa e applausi. Quando la notizia di ciò che stava accadendo raggiunse le donne in attesa nella Strangers Lobby, un sentimento di sdegno e concitazione si impadronì della folla. Notando la loro rabbia, sentì che era venuto il momento per una dimostrazione come nessuna suffragista vecchio stampo aveva mai tentato. Invitai le donne a seguirmi all'esterno per una adunata di protesta contro il governo. Invademmo lo spazio antistante il palazzo e la signora Wolstenholm Helmy, una delle più anziane attiviste per il suffragio di tutta l'Inghilterra, iniziò a parlare. La polizia fece istantaneamente irruzione fra la folla di donne, spintonandole e ordinando loro di disperdersi. Ci spostammo vicino alla grande statua di Riccardo Cuor di Leone, che guarda verso l'entrata della Camera dei Lord, ma la polizia intervenne di nuovo. Alla fine la polizia ci permise di radunarci sulla Broad Sanctuary, molto vicino ai cancelli dell'abbazia di Westminster. Qui tenemmo dei discorsi e adottammo una risoluzione di condanna del governo per aver permesso a una piccola minoranza di ostacolare il nostro progetto di legge. Questo fu il primo atto militante della WSPU. Suscitò commenti e anche qualche allarme, ma la polizia si accontentò di prendere i nostri nomi. L'estate seguente fu investita nell'attività all'aperto. Giunta a questa fase, la WSPU aveva acquisito numerose adesioni e i soldi cominciarono ad arrivare nelle nostre casse. Tra i nostri nuovi membri ce n'era uno destinato a svolgere un ruolo fondamentale nella scena del movimento attivista. Al termine di uno dei nostri raduni a Oldham, una ragazza mi si presentò come Annie Kenny, operaia in un cotonificio e forte simpatizzante del suffragio. Voleva sapere di più della nostra associazione e dei suoi obiettivi e io invitai lei e sua sorella Jenny, insegnante di scuola, a prendere un tè il giorno dopo. Vennero e aderirono alla nostra associazione, un passo che cambiò per sempre il corso della vita della signorina Kenny e a noi regalò una delle nostre leader e organizzatrici di maggior spicco. Grazie al suo contributo iniziamo a portare la nostra propaganda a un pubblico completamente nuovo. Nel Lancashire c'è un'istituzione conosciuta come Wakes, una sorta di fiera itinerante con tanto di giostre, tirassegno e altri giochi festivi, attrazioni di vario genere e bancarelle che vendono di tutto. Ogni piccolo paese ha la sua settimana di Wakes nel corso dell'estate e dell'autunno ed è usanza tra gli abitanti del villaggio trascorrere la domenica prima dell'apertura dei Wakes passeggiando tra le bancarelle in attesa dei divertimenti del giorno dopo. In queste occasioni l'esercito della salvezza, fautori dell'astinenza, venditori di farmaci miracolosi, ambulanti e altri approfittano del pubblico a portata di mano per farsi un po' di propaganda. Su consiglio di Annie Kenny andammo da un villaggio all'altro, seguendo i Wakes e parlando pubblicamente del suffragio. In breve facemmo concorrenza all'esercito della salvezza quanto a popolarità, eppure ai cavadenti e agli imbonitori di medicine. La WSPU aveva operato da 2 anni prima di avere l'opportunità di agire su scala nazionale. L'autunno del 1905 portò a una situazione politica che sembrava prometterci grandi speranze per l'emancipazione delle donne. La vita del vecchio Parlamento, dominato per quasi 20 anni dal Partito Conservatore, stava volgendo al termine e il paese era alla vigilia di un'elezione generale in cui i liberali potevano ambire a tornare al potere. Era naturale che i candidati liberali girassero il paese facendo ardenti promesse di riforme in ogni possibile campo. Chiedevano agli elettori di votarli in quanto sostenitori e paladini della vera democrazia e promettevano di realizzare un governo unito in favore dei diritti della gente contro il potere di un'aristocrazia privilegiata. Le passate esperienze ci avevano insegnato che l'unico modo di conquistare il suffragio femminile era di costringere il governo a occuparsene. In altre parole, le promesse di appoggio da parte dei candidati erano semplicemente inutili. Non valeva proprio la pena cercarle. L'unico obiettivo che occorreva perseguire era che i leader responsabili si impegnassero a far sì che il nuovo governo inserisse il suffragio femminile nel programma ufficiale. Decidemmo di rivolgerci a quegli uomini che avevano buone probabilità di entrare nel governo liberale, chiedendo di sapere se tra le loro riforme era incluso il tema della giustizia per le donne. Stendemmo il nostro programma per dare inizio ai lavori in una grande assemblea da tenere alla Free Trade Hall di Manchester, con Sir Edward Grey come principale relatore. La nostra intenzione era di prendere posto in galleria, proprio di fronte al palco, e realizzammo per l'occasione un grande cartello con scritto «Il Partito Liberale darà il voto alle donne?». Eravamo pronte ad appendere lo striscione alla ringhiera della galleria quando la nostra portavoce si sarebbe alzata per porre la questione a Sir Edward Grey. All'ultimo momento, però, dovemmo cambiare il piano perché era impossibile ottenere i posti che volevamo. Non c'era modo di utilizzare questo grande cartello e così nel tardo pomeriggio del giorno dell'assemblea lo scartammo e ne realizzammo un altro piccolo con sole 3 parole. Voto alle donne. In questo modo, fortuitamente, nacque l'attuale slogan del movimento suffragista nel mondo. Annie Kenney e mia figlia Christabel avevano la missione di incalzare Sir Edward Grey con le domande. Sedettero tranquille per tutta la durata dell'incontro, al termine del quale si diede inizio alle domande. Molte domande arrivarono dagli uomini e ricevettero tutte cortesi risposte. Poi Annie Kenney si alzò in piedi e chiese: «Se il Partito Liberale torna al potere, farà qualcosa per concedere il voto alle donne?» Contemporaneamente Christabel teneva alto il cartello, in modo che ognuno, nella sala, potesse comprendere la natura della domanda. Sir Edward Grey non diede alcuna risposta alla domanda di Annie e gli uomini seduti vicino a lei la invitarono rudentemente a riprendere posto nel suo sedile, mentre un addetto al servizio d'ordine le premeva il suo cappello in faccia. Una babele di grida, fischi e schiamazzi risuonò per tutta la sala. Non appena fu ristabilito l'ordine, Christabel si alzò in piedi e ripeté la domanda: «Il governo liberale, se eletto, concederà il voto alle donne?» Sir Edward Grey ignorò nuovamente la domanda. E nuovamente si sollevò una tumultuosa ondata di fischi e grida di rabbia. William Peacock, commissario capo di Manchester, abbandonò il palco e si diresse verso le donne, chiedendo loro di mettere la propria richiesta per iscritto e promettendo di farla avere al relatore. Quello che scrissero fu: «Il governo liberale concederà il voto alle lavoratrici?» Firmato per conto della WSPU. Annie Kenney, membro del comitato di Holdam degli operai del reparto cardatura e soffiatura. Aggiunsero un rigo per dire che, al pari di 96.000 operai e tessili, Annie Kenney desiderava una risposta alla domanda. Il signor Peacock fu di parola e consegnò la richiesta a Sir Edward Grey, che la lesse, sorrise e la passò agli altri sul palco. Anche loro la lessero con un sorriso, ma non fu data alcuna risposta alla domanda. Soltanto una signora che era seduta sul palco provò a dire qualcosa, ma il presidente dell'assemblea la interruppe, chiedendo a Lord Durham di passare al discorso di ringraziamento al relatore. Il signor Winston Churchill appoggiò la mozione, Sir Edward Grey replicò brevemente e l'assemblea cominciò a sciogliersi. Annie Kenney si alzò in piedi sulla sedia e strillò al di sopra del rumore dei piedi e del mormorio delle conversazioni. Il governo liberale darà il voto alle donne? A quel punto la platea divenne una calca. Urlavano, gridavano e ruggivano, brandendo i pugni verso la donna che aveva osato intromettersi con la sua domanda in una riunione di uomini. Alzarono le mani per tirarla via dalla sedia, ma Christabel la cinse con un braccio mentre era lì in piedi e con l'altro braccio teneva lontana la folla che colpiva e graffiava finché la sua manica non si colorò del rosso del sangue. Le ragazze continuarono a stare unite e a gridare: «La domanda! La domanda! Rispondete alla domanda!» Sei uomini del servizio d'ordine dell'incontro afferrarono Christabel e la buttarono giù per il corridoio oltre il parco. Altri uomini fecero lo stesso con Annie Kenny. Entrambe le ragazze non smettevano di urlare, chiedendo una risposta alla loro domanda. Sul palco i leader liberali sedevano muti e impassibili, mentre la vergognosa scena si consumava davanti ai loro occhi e la folla gridava e strillava dalla platea. Scagliate in mezzo alla strada, le due ragazze barcollando iniziarono ad arringare la folla, raccontando a tutti quello che era successo all'assemblea dei liberali. Nel giro di 5 minuti furono arrestate con l'accusa di ostruzionismo e nel caso di Christabel di aver assalito le forze dell'ordine. Furono entrambe chiamate a comparire la mattina dopo al tribunale di polizia, dove, dopo un processo che si rivelò una vera farsa, Annie Kenny fu condannata a pagare una multa di 5 scellini o in alternativa a passare 3 giorni in prigione, e Christabel Pankhurst ricevette un'ammenda di 10 scellini o una carcerazione di una settimana. Ambedue scelsero subito la galera. Non appena lasciarono il tribunale, io accorsi nella stanza dove erano state lasciate ad aspettare e dissi a mia figlia: «Avete fatto tutto quello che dovevate fare in una situazione del genere. Penso che dovreste lasciare che paghi io le multe e che vi riporti a casa». Senza attendere che Annie Kenny parlasse, mia figlia esclamò: «Mamma, se paghi la multa, a casa non ci torno». Prima di andare all'assemblea aveva detto: «Avremo una risposta alla nostra domanda? Oppure stanotte dormiremo in prigione». Ora sapevo che il suo coraggio era rimasto intatto. Chiaramente la vicenda creò enorme scalpore, non solo a Manchester, dove mio marito era stato molto conosciuto e dove io avevo tenuto a lungo cariche pubbliche, ma in tutta l'Inghilterra. I commenti della stampa furono quasi unitamente rabbiosi. Trascurando il consolidato fatto che ad ogni riunione politica gli uomini fanno domande e pretendono risposte da parte dei relatori, i giornali trattarono il gesto delle due ragazze come qualcosa di oltraggioso e mai visto prima. In generale concordarono che nei loro confronti si era stati troppo benevoli. Multe e carcere erano troppo poco per queste creature non ancora sessuate. La punizione dell'asilo sarebbe stata molto più appropriata. Un giornale di Birmingham dichiarò: «Se serviva un argomento per opporsi all'eventualità di dare alle donne potere e status politico, è stato fornito da Manchester». Quotidiani che fino a quel momento avevano ignorato la questione insinuarono che se prima erano stati favorevoli al suffragio femminile, adesso non potevano più tollerarlo. L'incidente di Manchester, si disse, aveva fatto retrocedere la causa, forse in maniera irrevocabile. Ecco come la fece retrocedere. Un sacco di persone scrissero ai giornali esprimendo simpatia per le donne. La moglie di Sir Edward Grey confessò ai suoi amici che secondo lei le ragazze erano giustificate per i metodi che avevano usato. Fu dichiarato che Winston Churchill, nervoso per la sua candidatura a Manchester, visitò la Strange Ways Prison, dove erano state detenute le ragazze, e implorò invano il direttore di lasciare che fosse lui a pagare le multe. Il 20 ottobre, quando le prigioniere furono rilasciate, si diede vita a un'immensa manifestazione alla Free Trade Hall, proprio il luogo da cui erano state espulse la settimana prima. La WSPU accolse una gran quantità di nuove associate, soprattutto la questione del suffragio femminile divenne di colpo il tema dominante delle discussioni da un capo all'altro della Gran Bretagna. stabilimmo che da quel momento in poi i cartelli voto alle donne sarebbero apparsi ogni qualvolta un futuro membro del governo liberale si fosse alzato per parlare, e che non ci sarebbe stata tregua finché non si fosse data una risposta alla domanda sulla questione delle donne. Ci rendevamo perfettamente conto che il nuovo governo, che si definiva liberale, era reazionario per quanto concerneva le donne, che era ostile al suffragio femminile e che dovevamo continuare a lottare finché non lo avessimo sconfitto o non avessimo destituito i membri dalle loro cariche. Non iniziamo la lotta, però, prima di aver concesso al nuovo governo l'ultima possibilità di farci la promessa che chiedevamo. All'inizio di dicembre il governo conservatore uscì di scena e Sir Harry Campbell Bannerman, il leader dei liberali, ebbe l'incarico di formare un nuovo governo. Il 21 dicembre si tenne un grande raduno alla Royal Albert Hall di Londra, dove Sir Harry, circondato dal suo consiglio, fece il suo primo discorso da primo ministro. Nell'imminenza della riunione scrivemmo a Sir Harry e gli chiedemmo, a nome della WSPU, se il governo liberale avrebbe concesso il voto alle donne. Aggiungemmo che le nostre rappresentanti sarebbero state presenti all'incontro e che speravamo che il primo ministro avrebbe risposto pubblicamente alla domanda. Altrimenti saremmo state costrette a protestare pubblicamente contro il suo silenzio. Ovviamente Sir Harry Campbell Bannerman non si degnò di rispondere. Nel suo discorso presentò un qualche riferimento al suffragio femminile. Pertanto, al momento delle conclusioni, Annie Kenney, che eravamo riuscite a far entrare di nascosto nella sala, tirò fuori il piccolo cartello bianco di stoffa e urlò con la sua voce dolce e chiara: «Il governo liberale darà il voto alle donne?» Nello stesso istante, Teresa Billington fece calare da un sedile proprio davanti al palco un grosso cartello con su scritto: «Il governo liberale darà giustizia alle lavoratrici?» Per un attimo ci fu un silenzio di sorpresa. La gente aspettò di vedere cosa avrebbero fatto i ministri del governo. Non fecero niente. Poi, nel frastuono di grida sovrapposte, le donne vennero afferrate e buttate fuori dalla sala. Questo fu l'inizio di una campagna come non se n'erano mai viste in Inghilterra o, se è per quello, in nessun altro paese. Se fossimo state abbastanza forti, ci saremmo opposte all'elezione di ciascun candidato liberale, ma avendo fondi e membri limitati, ci concentrammo su un solo personaggio del governo, Winston Churchill. Non che nutrissimo particolare animosità contro il signor Churchill. Scegliemmo lui semplicemente perché era l'unico candidato importante nelle circoscrizioni alla portata del nostro quartier generale. Partecipammo a tutte le assemblee che prevedevano un discorso di Churchill. Lo incalzammo senza pietà, gli rovinammo tutti i passaggi migliori, replicandogli a tono con delle ovvietà tali che la gente scoppiava a ridere. Alzavamo i piccoli cartelli bianchi dai più impensati angoli della sala, nel momento esatto in cui l'interruzione era meno gradita. Talvolta i cartelli ci venivano strappati di mano e calpestati sotto i piedi. Altre volte la folla si schierò dalla nostra parte e in effetti riuscimmo a far sospendere l'assemblea. Non riuscimmo a sconfiggere il signor Churchill, ma fu eletto con una maggioranza assai ridotta, la più piccola fra tutte quelle dei candidati liberali di Manchester. Non confinammo i nostri sforzi a infastidire Churchill. Durante la campagna elettorale continuammo a incalzare i ministri del governo alle riunioni in tutta l'Inghilterra e la Scozia. Alla Sun Hall di Liverpool, durante il discorso del primo ministro, 9 donne fecero una dopo l'altra l'importante domanda e furono gettate fuori dalla sala. E tutto questo alla luce del fatto che Sir Campbell Bannerman era un dichiarato suffragista. Ma la nostra richiesta non era diretta alle sue opinioni personali sul suffragio. Quello che volevamo sapere erano le intenzioni del governo riguardo al suffragio. Interrogammo Asquin, a Sheffield, Lloyd George, ad Altrincham, nel Cheshire, ancora il primo ministro a Glasgow, e interrompemmo molti altri incontri. Venivamo sempre insultate e buttate fuori violentemente. Ne uscivamo spesso contuse e doloranti. A cosa serviva tutto questo? ce lo siamo sentiti chiedere frequentemente, anche da donne che dalle nostre azioni erano state stimolate a fare delle cose che prima non avevano mai creduto di poter fare. Innanzitutto la nostra campagna di disturbo contribuì a rendere il suffragio femminile una notizia. Prima non era mai stato così. I giornali erano pieni di notizie su di noi. In più risvegliamo le vecchie associazioni in favore del suffragio. Durante le elezioni generali, vari gruppi di suffragisti non militanti ripresero vita e organizzarono un gigantesco manifesto per chiedere la partecipazione attivista del governo liberale. Tra gli altri, il manifesto fu sottoscritto dalla Women's Cooperative Guild, che contava 21.000 membri, dalla Women's Liberal Federation, con 76.000 membri, dalla Scottish Women's Liberal Federation, con 15.000 membri, dalla North of England Weavers Association, con 100.000 membri, dalla British Women's Temper Association, con quasi 110.000 membri, e dal Partito Laburista Indipendente, con 20.000 membri. Era già qualcosa aver ispirato tanta vivacità. Decidemmo che il primo passo doveva consistere nel portare la lotta a Londra e Annie Kenny fu scelta per fare da organizzatrice sul posto. Con in tasca appena 2 sterline, l'intrepida ragazza si mise in viaggio per compiere la sua missione. Nel giro di un paio di settimane io lasciai il mio impegno ufficiale di archivista nelle mani di un vice e mi recai a Londra per verificare a che punto eravamo. Con mio grande stupore constatai che Annie, in collaborazione con mia figlia Silvia, aveva organizzato un corteo di donne e una dimostrazione pubblica per il giorno di apertura del Parlamento. Le spigliate ragazze avevano incredibilmente occupato la Caxton Hall a Westminster. Avevano dovuto stampare una gran quantità di volantini per pubblicizzare il raduno e lavoravano sodo per allestire il programma della manifestazione. La signora Drummond, che si era unita a noi poco dopo la carcerazione di Annie Kenny e Christabel, avvisò da Manchester che stava venendo ad aiutarci. Dovette farsi prestare i soldi per il biglietto del treno, ma riuscì ad arrivare. E come era stato e come sarebbe stato anche in seguito, il suo aiuto fu preziosissimo. Quanto lavorammo distribuendo volantini, scrivendo col gesso sui marciapiedi l'annuncio dell'incontro, chiamando una per una tutte le persone che conoscevamo e anche tutte quelle che conoscevamo solo di nome, andando a bussare porta a porta. Alla fine, il giorno di apertura del Parlamento arrivò. Il 19 febbraio 1906 ebbe luogo il primo corteo londinese per il suffragio. Penso che parteciparono tra le 300 e le 400 persone, per lo più lavoratrici povere dell'East End, alle quali si unirono lungo il percorso molte altre donne di ogni classe sociale. Avevo gli occhi pieni di lacrime a guardarle, tutte in fila, mentre tenevano in mano i semplici cartelli decorati da mia figlia Silvia. E aspettavano un comando. Naturalmente il nostro corteo attirò una vasta folla di spettatori assai divertiti. La polizia comunque non fece altro tentativo di disperdere i nostri ranghi, ma ci intimò di tenere arrotolati gli striscioni. Non c'era ragione perché non potessimo portare dei cartelli se non il fatto che eravamo donne e quindi con noi potevano fare i prepotenti. Così, senza i cartelli, il corteo fece il suo ingresso nella Caxton Hall. Per mia sorpresa era strapiena di donne, molte delle quali non avevo mai visto prima un raduno in favore del suffragio. Il nostro incontro fu dei più entusiasmanti e mentre Annie Kenny stava parlando, salutata da frequenti applausi, mi giunse la notizia che il discorso del re, che in realtà non è quello del re, ma solo l'annuncio formale del programma di governo per la seduta, era stato letto e che non vi era stata fatta menzione del tema del suffragio femminile. Mentre Annie tornava al suo posto, io mi alzai in piedi e feci questo annuncio, promuovendo una risoluzione affinché l'incontro si spostasse immediatamente alla Camera dei Comuni per sollecitare i parlamentari a discutere un provvedimento sul suffragio. La risoluzione fu approvata. Uscimmo di corsa tutte unite e ci affrettammo verso l'entrata del pubblico. Pioveva dirotto e faceva molto freddo, eppure nessuna tornò indietro, anche quando all'ingresso apprendemmo che per la prima volta a memoria d'uomo le porte della Camera dei Comuni erano interdette alle donne. Mandammo dentro dei biglietti indirizzati ai parlamentari, che erano nostri amici personali, e alcuni di loro uscirono insistendo di lasciarci entrare. La polizia però si dimostrò ostinata. Eseguiva gli ordini. I liberali di governo, difensori dei diritti della persona, avevano disposto che le donne non dovessero più mettere piede nella loro roccaforte. Le pressioni dei parlamentari furono molto forti e il governo cedette in parte, consentendo a 20 donne per volta di accedere alla Stranger's Lobby. Al freddo e sotto la pioggia, queste centinaia di donne attesero per ore il loro turno per entrare. Alcune non ci riuscirono affatto e quelle che ci riuscirono ne trassero scarsa soddisfazione. Non un solo membro si convinse ad adottare la nostra causa. Al di là della delusione e dello scoramento per quell'esperienza, io feci un gran raccolto di felicità, come non mi era mai successo prima. Queste donne mi avevano seguito fino alla Camera dei Comuni, avevano sfidato la polizia, si erano destate finalmente. Erano pronte a fare una cosa che le donne non avevano mai fatto: lottare per se stesse. Le donne avevano sempre lottato per gli uomini e per i figli. Adesso erano pronte a lottare per i propri diritti umani. Il nostro movimento militante si era consolidato.